Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prima che tu legga ciò che dirò, devo fare una premessa indispensabile, senza la quale non puoi comprendere il valore di ciò che scrivo. Quando mi arresi a Dio e iniziai a frequentare i cristiani, non passò molto tempo perché si rendessero conto di trovarsi di fronte ad una particolarità della mia persona. Nulla di nuovo e di esclusivo, perché in fondo tutti abbiamo delle particolarità che ci distinguono gli uni dagli altri. La mia particolarità consisteva nel porre domande su domande, quasi all'infinito. Tutto era ragione di interrogativi. Così finirono per definirmi l'uomo dei problemi. Tutto quello che era normale per la gente comune, non lo era per me. A 21 anni mi comportavo come il bambino che sta passando la fase dei perché, perché piove. Perché il cane abbaia? Perché? Perché? A quell'età non ci comporta così. A 21 anni ormai a certi interrogativi si dovrebbe aver trovate delle risposte. Io però avevo la particolarità di pormi domande su certi aspetti, all'esistenza dei quali in genere neppure si pensava. Quando posi fede in Cristo quale mio unico Salvatore e Signore, ricevetti come tutti i credenti lo Spirito Santo mediante il quale comprendevo ciò che leggevo della parola di Dio. Quello che prima era un libro astruso e non adatto per me, ora era diventato un mezzo evidente e indispensabile per conoscere Dio e avere una risposta alle mie innumerevoli domande. Infatti, qualche anno prima, mentre tornavo a casa dal cinema a tarda sera, fui preso da un tale irresistibile e insaziabile desiderio di comprendere, che me non lo ricordo ancora oggi, molto vivamente, alzai gli occhi al cielo dicendo: «O Signore, se tu stasera mi offrissi qualunque cosa, io ti chiederei di darmi sapienza. Io desidero conoscerti, desidero capire la vita che sto vivendo. N.I.E. Nuovo Testamento e altro». Non ero trasportato da un momentaneo impulso religioso, generato dall'essere appena uscito da una focosa riunione di credenti. Non stavo imitando qualcun altro. Perché in quel momento era come se nulla esistesse, tranne noi due, io e il Dio sconosciuto al quale mi rivolgevo. Il Dio a me sconosciuto adesso mi aveva esaudito, leggevo la sua parola, la comprendevo capendo anche lo stesso Dio e ne gioivo. Non avevo però fatto i conti con la peculiarità datami da Dio nel crearmi. Così, dopo il breve e immacolato periodo di fidanzamento con Dio, iniziarono gli interrogativi. Interrogativi su tutto. Iniziai a chiedere spiegazioni ai credenti più maturi di me per ricevere delle risposte. Per il primo anno di conversione furono in grado di soddisfare i miei interrogativi. Ben presto, però, le loro repliche iniziarono a essere sempre più vaghe, con la spiegazione che a certe domande non si trovavano le giuste risposte. Così, dopo un periodo durato circa 3 anni di intensa comunione fraterna per comprendere le scritture, tornai al mio individuale rapporto con Dio per chiedergli la vera sapienza. Sapienza che trovavo mediante una costante e ostinata lettura della sua parola e anche di testi di tanti uomini e donne che hanno lasciato scritto ciò che ritenevano aver ricevuto da Dio. I loro pensieri venivano costantemente filtrati da ciò che Dio mi rivelava. Mi è impossibile ricordare tutti gli interrogativi in conseguenza dei quali la mia persona è andata formandosi. Dico la mia persona è andata formandosi perché per me gli interrogativi biblici non sono curiosità di bambini o di credenti inquieti, i quali il giorno dopo non si ricordano più le domande che li assalivano, ma sono quesiti ai quali cercare una risposta per poter vivere di conseguenza. Le domande che mi ponevo e che mi pongo mi accompagnano non come un'ombra, perché l'ombra ci è finché ci è la luce, ma fanno parte della mia esistenza, sia quando mangio, quando cammino, quando guido la macchina, come quando faccio sesso. Sono lì, come il respiro. Forse, senza esagerare, sono il respiro della mia esistenza. Per questo il mio rapporto con la parola di Cristo non è certamente unico, ma decisamente particolare, perché la scrittura è diventata, ed è tuttora, la risposta ai miei molteplici interrogativi. Essa ha modellato o trasformato il mio modo di parlare e di vivere. molti non la considerano con questa autorità. Ma se facessi anche uno sbaglio, desidero compierlo con le parole di Cristo, anziché con le parole di uomini. Del resto Gesù ha detto che i cieli e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Se anche avessi dei dubbi o interrogativi su queste parole, una cosa è certa. Siamo nel XXI secolo d.C. e, mentre tante parole pronunciate da uomini famosi e superintelligenti oggi valgono ben poco, le parole di Cristo sono sempre più valide, attuali e benefiche. Questo hanno prodotto i miei interrogativi e, una volta trovata la risposta, hanno creato in me delle certezze granitiche e sicure. Io non ho aderito a concetti filosofici o bei pensieri moralisti o meno, che non aiutano a vivere bene in questa vita, ma alle parole di Cristo, che illuminano la mente e fanno vivere in armonia con tutto il creato e gli uomini, almeno per quanto mi riguarda. Se poi il creato è inquinato e gli uomini non lo sono di meno, come dice la Scrittura, quando i fondamenti sono rovinati, cosa può fare il giusto? Fatta questa premessa, è giunto il momento di spiegare cosa mi è successo. Ho detto che i miei interrogativi su Dio e sulla vita sono molti, anzi moltissimi, e grazie a Dio in mezzo secolo di vita cristiana ho ricevuto tante risposte. Grazie a questo oggi sono in grado di aiutare molti credenti a superare problematiche di vita e di teologia biblica. Cosciente di questo, spesse volte ho sfidato chi mi ascoltava nell'esporre la parola di Dio a propormi degli interrogativi ai quali eventualmente io non avessi ancora pensato. Tuttora non ricordo chi lo avesse fatto, e se anche qualcuno ne fosse in grado, ciò dimostrerebbe comunque che di problematiche me ne sono poste. Da parte mia, ho anche compreso di non dover porre i miei interrogativi agli altri, perché non sempre ne sarebbero edificati, cosa che ho compreso da parte di Dio quando un fratello mi disse, con tanto amore, mediante lo Spirito Santo, «Fratello, tu non mi stai edificando». Dio mi aveva parlato, anzi, fulminato. Da quel giorno ho compreso che i miei interrogativi devono rimanere miei, fino a quando non ho ricevuto una risposta da parte di Dio. Solo a questo punto la mia conoscenza ha potuto e può ancora oggi essere di aiuto alla Chiesa. Un interrogativo che mi ha assillato fino a oggi, cioè per quasi mezzo secolo, mi è sorto alla domanda che Gesù ha posto sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27:46. Come ho detto, poiché gli interrogativi non sono mere curiosità, cinque, è da immaginarsi quanto queste parole di Gesù abbiano tormentato la mia mente e il mio spirito. Perché Gesù ha chiesto sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Possibile che Gesù non fosse a conoscenza del motivo che aveva spinto Dio a abbandonarlo? Non lo aveva abbandonato a causa dei peccati che portava sulla croce? Non aveva detto Gesù ripetutamente di essere venuto per dare la sua vita in sacrificio per i peccati del mondo? Il profeta Isaia non aveva profetizzato chiaramente che egli avrebbe offerto la sua vita in sacrificio per il peccato? Isaia 53:10. Perché, nonostante lo sapesse, e nonostante fosse già stato profetizzato dai profeti, Gesù chiede a Dio il motivo di quell'abbandono? Ho posto queste domande per mezzo secolo a moltissimi credenti, ma nessuno ha dato una risposta che soddisfacesse il mio spirito. Qualcuno ha accennato che Gesù sulla croce avesse citato il Salmo 22, ma era una risposta molto misera perché Gesù non citava le scritture tanto per citarle. E se anche avesse menzionato il Salmo di Davide non sarebbe stato per formalità religiosa. Gesù non stava recitando una parte e quando gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato? Stava effettivamente domandando a Dio il motivo di quel concreto abbandono che stava sperimentando. Ho letto per quasi mezzo secolo la parola che Dio ci ha data anche per avere questa risposta, fino alla mattina del 24 gennaio 2013, quando nella mia preziosa «Perché arde l'ira tua contro il gregge del tuo pascolo?» ci fu un attimo di pausa, di strano smarrimento e di improvvisa luce. Perché il salmista si chiede il motivo dell'allontanamento e dell'ira di Dio? Non lo sapeva, forse? Certo che lo sapeva. Ne era conscio perché lo aveva profetizzato Mosè nella legge migliaia di anni prima. Lo sapeva, perché lo avevano riconfermato e ripetuto più volte i profeti. Il salmista sapeva molto bene perché Dio li aveva respinti e perché nutrisse ira verso il suo popolo. Come lo sapeva il re Davide, quando in occasione della sconfitta dell'esercito di Saul sul monte Gilboa, la quale causò la morte di Saul e del figlio Jonathan, si chiese «Come mai, cioè perché, sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia? Come mai, cioè perché, Jonathan fu ucciso nelle tue alture?» 2 Samuele 1 e 25. La domanda di Gesù aveva questo scopo. Non era un perché scaturito dall'ignoranza, dal desiderio di comprendere. La domanda di Gesù a Dio riguardante il motivo del suo abbandono non fu pronunciata per mancata conoscenza da parte sua, ma quel perché funzionale per far riflettere e pensare chi l'ascolta. Dunque, la chiave di comprensione del grido disperato di Gesù sta nel significato della parola «perché». Io avevo presupposto che la domanda «perché» sorgesse sempre a motivo di un'ignoranza da parte di chi la pone. Però, poi, leggendo e rileggendo, ho compreso l'esistenza di un'altra sfaccettatura nel significato dell'avverbio in questione, palesata, ad esempio, nell'ordine di Gesù «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Matteo 3, 2. Esiste poi il perché posto a causa di ignoranza, come quando i discepoli chiedono a Gesù perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia. Marco 9, 11. E il perché finalizzato a far riflettere, come quando Gesù chiese «Come mai?» Cioè perché gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide. Marco mezzogiorno e 35. Oppure quando chiese alla guardia del sommo sacerdote che lo aveva schiaffeggiato, se ho parlato male, mostra. Dov è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Giovanni 18 e 23. In quella morte sulla croce si stava realizzando uno dei più grandi eventi drammatici della storia umana, cioè Gesù, uomo Dio, porta la condanna di tutta la creazione di Dio e Gesù, consapevole di quanto stava avvenendo, pone una domanda non per sé, ma ancora una volta per il bene dell'umanità, perché il suo scopo è quello di far riflettere ogni essere umano, nell'età presente e futura, riguardo a ciò che stava facendo e ciò che si stava verificando. Dicendo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù si stava rivolgendo a me e a te, perché tutti possiamo prendere sul serio il vero motivo della sua morte. Egli ti chiede, hai capito il perché del mio abbandono? Se io ho sempre testimoniato con verità che io e il Padre siamo sempre in armonia, che il Padre opera e parla tramite me, che io sono sempre stato in perfetta comunione con Dio, perché Dio mi ha abbandonato? Questa è la domanda delle domande. Per quanto tu sia afferrato su ogni argomento teologico, se non hai capito e accettato la ragione del mio abbandono, a nulla ti serve la tua conoscenza. Il perché, gridato da Gesù, è rivolto a me e a te. Non si tratta di una domanda che il Salvatore si sia posta per ignoranza. Gesù ha pronunziato le sue parole in dialetto, molto probabilmente perché la sua persona umana era stata spogliata completamente, o vuotato di se stesso, Filippesi 2:7. Ma anche in questo frangente le sue parole sono state espresse per noi, si è interessato più a me e a te, che a se stesso. Come quando, prossimo alla morte, affidò sua madre al discepolo che Gesù amava. Non ha parole. Ora sembra che tutti gli altri interrogativi svaniscano, o almeno non abbiano più un grande valore. Gesù vuole che io pensi e ripensi al perché del suo abbandono, perché mediante il suo abbandono io sono stato riconciliato a Dio. Se Dio ha abbandonato suo figlio a causa dei miei e i nostri peccati, è perché mediante la sua morte tu e io potessimo diventare figli di Dio. Ho compreso maggiormente l'immenso e incomprensibile amore di Dio, ponendomi la domanda il contrario. Dio mio, perché non mi hai abbandonato? Lui aveva tutte le ragioni per farlo, perché a motivo non lo cercavo, e se lo cercavo era perché il suo spirito operava nella mia mente e nel mio spirito. Se ho chiesto sapienza, voglio testimoniare con piene facoltà mentali, che è un dono. Elargitomi dallo Spirito di Dio e piego le ginocchia in adorazione per questa sua preziosissima scelta. Il peggiore dei peccatori ha ricevuto uno dei migliori doni, Non credo che sia possibile e neppure lecito parlare di questo argomento senza elencare il pensiero dei credenti che mi hanno preceduto, sia per ricordare la fede tramandata una volta e per sempre ai santi, sia perché l'amore e la volontà di Dio sono comprensibili con tutti i santi, Efesini 3:18. Uno degli studiosi biblici del XX secolo, riconosciuto e stimato come tale, è stato certamente John Stott. Gli fu chiesto di scrivere un libro sull'argomento, da lui stesso definito, più importante e più glorioso, La Croce di Cristo. Il libro, composto da più di 500 pagine, fu pubblicato dalla casa editrice GBU nel 2001 e nel corso della sua trattazione, Stott non mancò di commentare il grido di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A pagina 103, prima di dare una sua spiegazione, formula quattro interpretazioni relative a questo evento e, in particolare, a queste parole. Trovo opportuno citare queste quattro interpretazioni per non far sembrare la mia spiegazione come proveniente dal famoso illuminato che si sveglia una mattina per enunciare nuove eresie. Egli scrive: nella prima interpretazione, alcuni suggeriscono che si trattò di un grido di ira, di incredulità o disperazione. Forse Gesù si era aggrappato alla speranza che all'ultimo momento il Padre avrebbe mandato degli angeli a salvarlo, o almeno sperava che, nel momento della sua completa ubbidienza, completa alla volontà del Padre, avrebbe continuato a sperimentare il conforto della sua presenza. Invece avvertì chiaramente di essere stato abbandonato e gridò lanciando un perché, straziante di costernazione o di sfida, la sua fede venne meno. Ma naturalmente si sbagliava, aggiungono i sostenitori di questa interpretazione. Egli pensava di essere stato abbandonato, ma non era così. Coloro che spiegano in questo modo il grido di abbandono non si rendono conto delle implicazioni. Essi stanno negando la perfezione morale del carattere di Gesù, dicendo che fu colpevole di incredulità sulla croce come di codardia nel giardino. Lo stanno accusando di fallimento proprio nel momento del supremo sacrificio di sé. La fede cristiana protesta contro questa spiegazione. Per quanto mi riguarda, vorrei aggiungere che non è proprio possibile avere un simile atteggiamento verso la perfezione morale di Gesù, perché in questo modo dovremmo considerare una favola ciò che leggiamo nei Vangeli. Anzi, peggio di una favola. La favola ha un suo senso logico, perché ai personaggi si è assegnato il valore attribuito loro dallo scrittore. Così che, se Biancaneve ha avuto a che fare con i sette nani, quello, non uno diverso, era realmente il numero dei suoi piccoli amici. Dire che Gesù si fosse ingannato sulla croce quando è stato abbandonato da Dio porta anche a dire che si fosse ingannato quando guariva, quando vedeva e quando udiva. Una seconda interpretazione, continua John Stott, che è una variante della prima, intende il grido di abbandono come un grido di solitudine. Gesù, si sostiene, sapeva che Dio non poteva venir meno alle promesse di non abbandonare il suo popolo. Conosceva la fermezza del patto d'amore di Dio. Dunque, il suo perché non fu una protesta per essere stato effettivamente abbandonato da Dio, ma perché egli aveva permesso che si sentisse abbandonato. Ho pensato qualche volta, scrisse T.R. Glover, che non ci sia mai stata un'espressione la quale riveli in modo più sorprendente la distanza tra il sentimento e la realtà. Invece di rivolgersi a Dio come padre, ora egli poteva chiamarlo soltanto mio Dio, che è un'affermazione di fiducia nella sua fedeltà al patto, ma non riconosce il suo amore paterno. In tal caso Gesù non si sbagliava, né era incredulo, ma sperimentava ciò che i santi hanno chiamato la notte oscura dell'anima, e tutto questo deliberatemene, per solidarietà con noi. In questa condizione, come sostiene Thomas J. Crawford, il popolo di Dio non trae nessuna soddisfazione consapevole dalle gioie del suo favore e dal conforto della sua comunione. Non gli è concesso nessun sorriso di approvazione, nessuna voce di lode, nessuna manifestazione interiore del favore divino. Questa spiegazione è possibile, essa non macchia il carattere di Gesù come la prima, ma sembra esserci una difficoltà insuperabile nell'accettarla. Le parole del Salmo 22:1 esprimono l'esperienza di essere, non di sentirsi abbandonato da Dio. Una terza interpretazione, abbastanza diffusa, sostiene che Gesù emise un grido di vittoria. L'esatto opposto della prima ipotesi, cioè il grido di abbandono. L'argomentazione è ora che Gesù, pur citando solo il primo versetto del Salmo 22, intendeva esprimere l'intero Salmo, che inizia e prosegue con l'enumerazione di sofferenze terribili, ma termina con espressioni di grande fiducia, persino di trionfo. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Questa ipotesi è ingegnosa, ma a me sembra, continua Stott, forzata, perché Gesù avrebbe dovuto citare solo l'inizio del Salmo, se in realtà alludeva alla fine? Sembrerebbe illogico. Chi avrebbe compreso il suo scopo? A mio avviso queste due interpretazioni sono a loro volta frutto di un ragionamento umano e anche non ebraico, perché sentire meno, cioè provare un sentimento meno che non corrisponda al vero, non è un'esperienza dei profeti, Gesù era più che profeta. Inoltre, citare una parte della scrittura, per riferirsi al brano intero, non proveniva certamente da chi parlava da parte di Dio. Sono sempre state le parole dei profeti ad essere pesate, non quelle da loro lasciate inespresse. Una quarta interpretazione, continua il reverendo John Stott nel suo libro, è semplice e chiara. Essa consiste nel prendere le parole nel loro senso letterale ed intenderle come un grido di reale abbandono. Sono d'accordo con Dale, che scrisse: rifiuto di accettare qualsiasi spiegazione di queste parole, con l'implicazione che esse non esprimano la verità effettiva della posizione del nostro Signore. Gesù non aveva nessun bisogno di pronunciare un grido falso. Fino a quel momento, anche se abbandonato dagli uomini, egli aveva potuto dire: ma io non sono solo, perché il Padre è con me, Giovanni 16:32. Tuttavia nell'oscurità egli fu completamente solo, essendo ora abbandonato anche dal Padre. Come scrisse Calvino, se Cristo avesse sperimentato solo la morte fisica, essa sarebbe stata inefficace. Se la sua anima non avesse partecipato alla punizione, egli sarebbe stato redentore solo dei corpi. Di conseguenza, egli pagò un prezzo maggiore e più eccellente, soffrendo nella sua anima il tormento terribile di un uomo condannato e abbandonato. Ebbe luogo dunque, continua Stott, una separazione effettiva e tremenda tra il padre e il figlio. Essa fu accettata volontariamente sia dal padre che dal figlio, fu dovuta ai nostri peccati e alla loro giusta retribuzione. Granfield ha ragione nel sottolineare entrambe le verità, cioè che Gesù sperimentò non puramente un senso di abbandono ma un abbandono da parte di suo padre, e che, nonostante l'abbandono da parte di Dio fosse del tutto reale, paradossalmente l'unità della benedetta Trinità non fu rotta neppure in quel momento. A questo punto dunque conclude il reverendo Stott. È sufficiente supporre che Gesù stesse meditando sul Salmo 22, in cui è descritta la persecuzione crudele di un uomo innocente e pio, così come meditò sugli altri salmi da lui citati sulla croce. Egli citò il versetto 1 per la stessa ragione per cui citò ogni altra scrittura, perché credeva di adempierlo. Il suo grido fu una forma di domanda perché, non per ignoranza della risposta, ma soltanto per via della forma che il testo stesso aveva nel Vecchio Testamento. Qui terminano le riflessioni del reverendo John Stott, ma a mio avviso vi sono alcune cose da chiarire. Innanzitutto Gesù non fu abbandonato dal Padre, perché nell'attimo prima di morire disse: Padre, rimetto il mio spirito nelle tue mani, Luca 23:46, mantenendo così il suo rapporto di figliolanza. Perciò il grido Dio mio, perché mi hai abbandonato, proveniva dall'uomo Gesù, che si rivolgeva alla sua deità dalla quale era stato abbandonato. Lo stesso tipo di invocazione si riscontra anche nel testo di Apocalisse 3:11-12, dove Gesù, in riferimento alla deità, usa la stessa espressione mio Dio per ben tre volte. Inoltre Gesù non stava meditando un salmo, ritenendolo appropriato per l'occasione o per via della forma del testo. Lo stava citando ma con un altro significato, come del resto ha fatto con altri passi della scrittura. Non mi rimane che concludere con quanto Dio mi ha fatto comprendere del grido di Gesù, umanamente reale sia nella sua emissione come nel contenuto delle parole, tenendo presente che anche i perché sono polisemici, cioè hanno più significati come tutte le altre parole. Un estremo estremismo ci porta a estremismi inutili e a interpretazioni fuorvianti. Gennaio 24, 2013, ore 10:30. Ellero,